Europa 24. Buon pomeriggio da Gigi Donelli, ripartiamo da David Cameron che, secondo Financial Times, sta portando il Regno Unito sempre più vicino all'uscita dell'Unione, dall'Unione Europea. Così si legge appunto nell'editoriale del quotidiano secondo cui il primo ministro britannico, chiedendo di limitare gli ingressi dei paesi UE, sta facendo un azzardo irrealistico nei negoziati con Bruxelles. E intanto a Bruxelles, o meglio in questo caso a Strasburgo, in seduta plenaria, si attende ormai il voto dell'Europarlamento sulla prima commissione Juncker. La Commissione europea guidata da Jean-Claude Juncker dovrebbe ricevere domani a Strasburgo la fiducia del Parlamento europeo. L'esito del voto non è in discussione. Il nuovo esecutivo comunitario è sostenuto infatti da una grande coalizione popolare socialista. Sarà interessante tuttavia capire quanti saranno i franchi tiratori che non mancheranno in nessuno dei due campi. La nuova Commissione, che dovrebbe entrare in carica il 1 novembre, è assai più politica di quella precedente. 11 governi su 28 hanno deciso di mandare a Bruxelles ministri in carica, a conferma che molti paesi si aspettano che il nuovo esecutivo comunitario abbia maggiore influenza politica rispetto a quello precedente, presieduto dall'ex premier portoghese José Manuel Barroso. C'è molta attesa per il piano da 300 miliardi di euro in investimenti che Juncker ha promesso in luglio e che dovrebbe servire a rilanciare l'economia europea. Naturalmente una delle prime incombenze della nuova Commissione sarà di valutare i bilanci nazionali per il 2015. Quello italiano non è considerato perfettamente in linea con le regole europee. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lussemburgo. Serve un target europeo vincolante di almeno il 40% per l'efficienza energetica entro il 2030. Questa è la richiesta delle imprese verdi a favore del risparmio energetico che fanno parte dell'associazione EUASE, l'Alleanza Europea per il Salvataggio dell'Energia. Tutto questo in una lettera inviata al presidente dell'Unione Europea, Herman Van Rompuy. Dunque, naturalmente tutto questo anche in un'ottica, ve lo ricordo, giovedì e venerdì vertice europeo dovrà decidere anche gli obiettivi su clima ed energia. Intanto si stringe però l'accordo sul gas russo. Prova del 9 per gli accordi di Milano, l'intesa tra Unione Europea, Ucraina e Russia si trasferisce a Bruxelles per dare i primi frutti sul fronte del gas giusto in tempo per l'annunciato arrivo del freddo. Un accordo, seppur provvisorio, tra Naftogaz e Gazprom che miri a garantire, oltre alla fornitura di gas all'Ucraina, la stabilità del transito delle forniture per l'Unione Europea quest'inverno. Accordo che, tra i molti, oggi la Germania ha chiesto diventi al più presto operativo. Del resto, dopo i colloqui di Milano, che avevano aperto il primo spiraglio, sabato il presidente ucraino Poroshenko aveva annunciato l'intesa con Mosca sul prezzo del gas almeno per i prossimi mesi. Il presidente russo Putin aveva invece parlato solo di un'intesa sulle condizioni per la fornitura di gas. Un tavolo a tre, insomma, quello di oggi a Bruxelles, da cui capiremo quanto sarà salato il conto della prossima bolletta energetica, con il freddo che ormai è atteso un po' ovunque. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è partito proprio da Bruxelles il tour di Books in Italy, il sito nato per promuovere l'editoria italiana nel mondo. Sentiamo Paolo Grossi, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura nella capitale europea. A Bruxelles, all'Istituto Italiano di Cultura, abbiamo presentato il nuovo sito booksinitaly.it destinato alla promozione del libro italiano all'estero. Era presente Luca Formenton in qualità di presidente della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, che ha operativamente realizzato questo sito, che ha l'appoggio e il sostegno del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dei Beni Culturali e dell'Associazione Italiana Editori. È la prima volta che l'Italia dispone di uno strumento che si rivolge agli editori stranieri per promuovere il libro italiano all'estero, promuovere la vendita dei diritti italiani all'estero. È un sito bilingue, in italiano e in inglese, con segnalazioni di libri, interviste, microsaggi, ingrandimenti, strumenti che sono diretti agli operatori della filiera del libro. Perché Bruxelles è una piazza strategica per questo progetto? Beh, direi per il suo rilievo di capitale europea, luogo in cui si parlano almeno una quindicina di lingue, in cui si incrociano esperienze editoriali diverse tra il fiammingo, il francese e l'inglese, e quindi offre in questo senso una vetrina internazionale adatta a presentare uno strumento che per sua intrinseca natura è proiettato verso l'internazionale. L'Europa legge italiano? L'Europa legge italiano e dirò anzi che qui a Bruxelles in particolare c'è una libreria italiana che vende solo libri italiani e mi risulta che abbia molto successo. E con questo è tutto, Europa 24 torna domani, un saluto. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.